Università San Raffaele di Milano, nella facoltà di filosofia per la precisione. Ho pubblicato diversi libri, l'ultimo dei quali si intitola L'anima e il suo destino. In questi incontri, qui a Damasco, io ho scelto di parlare della spiritualità del Novecento, mostrando la peculiarità di questa spiritualità, la caratteristica nuova che il Novecento ha portato rispetto a tutti i secoli che l'hanno preceduto. E ho fatto vedere come questa caratteristica consista nell'amore per il mondo, quale identico all'amore per Dio. Un tempo, soprattutto la tradizione agostiniana, comunque dominante all'interno del mondo cattolico, del cristianesimo occidentale, pensava che l'amore per Dio dovesse portare al disprezzo per il mondo, al noto contemptus mundi, disprezzo per il mondo. Il Novecento ha mostrato come, al contrario, l'autentico amore per Dio deve portare a una totale comunione per il mondo. Ho mostrato che questa grande rivoluzione è avvenuta attraverso la vita e gli scritti di alcuni grandi testimoni. Finora abbiamo visto Pavel Florensky, questo sacerdote ortodosso, matematico, teologo, che venne ucciso mediante fucilazione l'8 dicembre 1937 durante una purga staliniana. Ieri abbiamo visto Simone Weil, personaggio filosofico di primissimo livello, che morì a 34 anni in un ospedale, in un sanatorio del Kent, in Inghilterra. Un altro testimone che ha pagato con la sua vita, che ha pagato concretamente con la sua vita e con la sua morte, la sua adesione al mondo per renderlo più giusto, è Dietrich Bonhoeffer, pastore protestante che venne ucciso mediante impiccagione il 9 aprile, la mattina presto, il 9 aprile 1945, dietro ordine personale di Hitler. Ecco, devo dire che di tutti i cinque testimoni di cui vi parlo, Dietrich Bonhoeffer è colui che maggiormente ha segnato la mia vita e colui al quale maggiormente, fin da ragazzo, io mi sento legato, e quindi ve ne parlerò, direi, forse con maggiore trasporto che non gli altri. Sono Vito Mancuso e sono molto lieto di poter presentare a chi mi ascolta, per quanto nel breve spazio di questa trasmissione, la vita, il pensiero, la grandezza di Dietrich Bonhoeffer. Vi ho già detto che morì impiccato nel lager di Flossenbürg all'alba del 9 aprile 1945 e che fu Adolf Hitler in persona a dare l'ordine di eliminare. Ormai la guerra stava per concludersi, ma il Führer si volle togliere anche questa vendetta personale nei confronti di questo giovane pastore protestante, giovane perché aveva 39 anni quando perse la vita. E perché si trovava nel lager di Flossenbürg? Che cosa aveva fatto di male? Ma era entrato a partecipare attivamente nella resistenza antinazista. Aveva deciso di lasciare i libri, di lasciare la cattedra a favore dell'impegno politico. E perché? Ma per l'amore per il mondo. Perché avere fede in Dio significa essere fedeli al mondo e alla sua giustizia, voler trasformare sempre più questo mondo in un luogo giusto. Ed è per questo che il grande Bonhoeffer si impegnò attivamente in un complotto per uccidere Hitler. Tra l'altro lui diceva: se io vedo un pazzo che con una macchina sta attraversando il viale principale di Berlino e travolge i passanti, non devo semplicemente curare coloro che vengono schiacciati, ma devo anche darmi innanzitutto da fare per far sì che questo pazzo interrompa la sua corsa. Devo quindi in concreto eliminare il Führer, ed era quello appunto che lui tentò. Bonhoeffer viene da una famiglia di grandi tradizioni accademiche, una famiglia di alta aristocrazia. Il padre era un professore universitario di psichiatria e neurologia, la madre era di discendenza aristocratica ancora più elevata, e il nonno era stato amico personale di Goethe. Era una famiglia nel quale si coltivava la passione per la musica. E lui non deluse mai le qualità intellettuali della famiglia, perché a 21 anni era già laureato, a 25 era già professore universitario presso l'Università di Berlino. Ma appunto, dopo 2 anni Hitler giunge al potere e Bonhoeffer non esita un istante a intervenire pubblicamente contro la politica di discriminazione razziale. Capisce che fare teologia e al contempo permettere che inizi questa politica di discriminazione razziale che Hitler portava avanti fin dall'inizio contro gli ebrei è perfettamente contraddittorio. E quindi lui, Bonhoeffer, scrive un volantino, lo distribuisce in università, si impegna attivamente e ovviamente sa fin dall'inizio che fare tutto ciò significa compromettere la brillante carriera accademica. Ma ebbene, lui pensava però che la verità di ciò che si dice dalla cattedra o dal pulpito si misura da quanto si dice e si fa, nella piazza, nelle strade, cioè dove si svolge la vita concreta del mondo. E questo è il punto. Amore di Dio, amore per la teologia, uguale amore per il mondo, uguale amore per la giustizia. Noi possiamo avere un'idea della forza spirituale di quest'uomo ascoltando nel brano che adesso seguirà la testimonianza del medico del lager che lo vide morire. Attraverso la porta semiaperta di una stanza delle baracche, vidi che il pastore Bonhoeffer, prima di svestire gli abiti da prigioniero, si inginocchiò in profonda preghiera con il suo Signore. La preghiera così devota e fiduciosa di quell'uomo straordinariamente simpatico mi ha scosso profondamente. Anche al luogo del supplizio, egli fece una breve preghiera. Quindi salì coraggioso e rassegnato al patibolo. La morte giunse dopo pochi secondi. Nella mia attività medica di quasi 50 anni, non ho mai visto un uomo morire con tanta fiducia in Dio. Sono Vito Mancuso, sono un teologo laico e vi sto parlando di Dietrich Bonhoeffer, pastore protestante che venne impiccato nel lager di Flossenbürg alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il 9 aprile del 1945. Prima di perdere la vita in quel giorno, Bonhoeffer trascorse 2 anni in carcere, precisamente nel carcere di Berlino di Tegel, dove la Gestapo l'aveva condotto all'inizio di aprile del 1943. Quindi abbiamo grosso modo un periodo di quasi 2 anni nel quale Bonhoeffer sta in carcere e può scrivere, perché effettivamente anche lui, come già Florensky nel Gulag staliniano, aveva la possibilità di scrivere e ricevere lettere. E così come questa possibilità fu all'origine delle grandissime lettere di Pavel Florensky che abbiamo visto nel primo di questi incontri, allo stesso modo queste lettere che Bonhoeffer scrisse alla madre, al padre, alla fidanzata, alla giovane fidanzata che si chiamava Maria von Wedemeyer e soprattutto l'amico e collega teologo Eberhard Bethge, queste lettere costituiscono uno dei patrimoni spirituali più ampi, più alti, più luminosi del Novecento. Fu proprio Bethge, questo amico che è il destinatario della gran parte delle lettere di Bonhoeffer, a pubblicarle postume nel 1951 sotto il titolo di Resistenza e resa. Bethge a quel tempo era in Italia, faceva il soldato dell'esercito del Terzo Reich. E Bonhoeffer invece è in carcere a causa del suo impegno contro Hitler ed è curioso appunto che abbiamo da un lato un antinazista che sta in carcere, dall'altro uno che forzatamente è stato costretto ad aderire all'esercito nazista, e i due che si scrivono, e questo scriversi costituisce uno dei capolavori, come ho già detto, della teologia del Novecento. In una delle pagine, in una di queste lettere, Bonhoeffer dice: "Ti meraviglieresti, forse addirittura ti preoccuperesti delle mie idee teologiche e delle loro conseguenze", perché questa è la cosa importante, cioè che a partire dal 1944 Bonhoeffer compie una rivoluzione teologica decisiva. Una rivoluzione teologica la cui portata, a mio avviso, non è ancora chiara, neppure oggi. Perché cioè egli ritiene decaduta l'immagine tradizionale di Dio e dice deve nascere un'altra immagine. Qual è l'immagine tradizionale di Dio che viene dichiarata decaduta? È quella che per affermarsi necessita della debolezza dell'uomo e del mondo, cioè quel Dio che Bonhoeffer dice tappa buchi, proprio come gli dei della commedia greca che venivano fatti calare in teatro da una macchina, il Deus ex machina. C'è una situazione ingabugliata, gli uomini non sanno come venirne fuori ed ecco che dall'alto scende attraverso questa macchina il Dio che risolve la situazione, quel Dio tappa buchi. Ecco, Bonhoeffer dice, gli uomini ormai hanno imparato a cavarsela da sé in gran parte delle situazioni della vita e quindi questa immagine di Dio è superata. Le persone religiose parlano di Dio quando la conoscenza umana, qualche volta per pigrizia mentale, è arrivata alla fine o quando le forze umane vengono a mancare. E in effetti quello che chiamano in campo è sempre il Deus ex machina, sempre sfruttando la debolezza umana o di fronte ai limiti umani. Io vorrei parlare di Dio non ai limiti, ma al centro, non nelle debolezze, ma nella forza, non in relazione alla morte e alla colpa, ma nella vita e nel bene dell'uomo. Non dobbiamo attribuire a Dio il ruolo di tappabuchi nei confronti dell'incompletezza delle nostre conoscenze. Dobbiamo trovare Dio in ciò che conosciamo. Dio non è un tappabuchi. Dio non deve essere conosciuto solamente ai limiti delle nostre possibilità, ma al centro della vita. Nella vita, nella salute, nella forza, nell'agire. Gesù Cristo è il centro della vita. Gesù non ha fatto come prima cosa di ogni uomo un peccatore. Non ha mai messo in questione la salute, la forza, la felicità di un uomo in quanto tali, né li ha considerati dei frutti bacati. Perché altrimenti avrebbe risanato i malati, ridato la forza ai deboli? Gesù rivendica per sé e per il regno di Dio la vita umana tutta intera e in tutte le sue manifestazioni. Dichiara decaduta l'immagine tradizionale di Dio, Dio come tappabuchi rispetto alle imperfezioni della conoscenza umana. Gli uomini hanno imparato a cavarsela da sé, dice Bonhoeffer, anche per quanto riguarda la vita morale, non solo per quanto concerne l'aspetto tecnico. E quindi occorre una nuova modalità di pensare il concetto di Dio. Ecco, i pensieri di Bonhoeffer che abbiamo ascoltato prima sono alla base di quella che io chiamo teologia universale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si tratta di superare il concetto di rivelazione come qualche cosa di inaudito e di particolare, qualche cosa che non è già contenuto fin dall'inizio, fin dall'origine, nel senso profondo della creazione. Bonhoeffer dice che Gesù rivendica per sé la vita umana tutta intera. Ma allora questo vuol dire vedere in lui non qualcosa di nuovo, ma qualcosa di antichissimo, di eterno, di sempre presente nella vita umana, qualcosa che guarda nella direzione della religiosità universale, quindi nella sua dimensione profonda, naturale. Cioè, voi capite che siamo alle prese con un concetto di rivelazione cristiana che capovolge la prospettiva. Rivelazione non è ti dico qualche cosa che prima nessuno ti ha detto, ma rivelazione diventa ti svelo la logica profonda dell'essere, dell'essere uomo, ti svelo ciò che da sempre è contenuto nella creazione, ciò che da sempre è contenuto nella natura. Ecco, il concetto di natura diventa decisivo. È un concetto assolutamente nuovo per quanto riguarda la teologia, soprattutto per quanto riguarda la teologia moderna, ma nell'accentuare la potenza salvifica e rivelativa della natura, Bonhoeffer si lega perfettamente sia con Pavel Florensky, di cui abbiamo parlato due volte fa, sia con Simone Weil, sia con Teilhard de Chardin, che sarà l'ultimo degli incontri che faremo. Si tocca cioè quello che in teologia, con una parola, un'espressione latina, forse un po' complessa, ma spero adesso di rendere chiaro, è l'analogia entis, cioè l'analogia dell'essere, cioè tra Dio, che è la fonte dell'essere, e il mondo naturale e noi stessi, c'è analogia, c'è perfetta analogia, perfetta corrispondenza. Per rendere le cose forse più chiare, più immediate, adesso noi ascolteremo un testo nella quale vedremo in che senso Bonhoeffer parla della natura come luogo per incontrare Dio. In una lettera precedente, l'amico Bethge, che allora, come già ricordato, era soldato dell'esercito tedesco, ovviamente, sul fronte italiano, si lamentava del sole, era troppo intenso per la sua pelle nordica. Il 30 giugno 1944, Bonhoeffer gli risponde, e parlando del sole, del suo desiderio di sentire il sole sulla sua pelle, dà un piccolo saggio di teologia universale, cioè di quella fiducia nella natura che da sé è in grado di generare lo spirito. Il sole. Vorrei farmi stancare da lui, anziché dai libri e dalle idee. Vorrei che risvegliasse la mia esistenza animale. Non quell'animalità che sminuisce l'essere uomo, ma quella che lo libera dall'ammuffimento e dall'inautenticità di un'esistenza solo spirituale e rende l'uomo più puro e più felice. Il sole vorrei sperimentarlo corporalmente. I paesi caldi, dal Mediterraneo all'India e all'America centrale, sono stati paesi veramente creativi dal punto di vista spirituale. I paesi più freddi hanno vissuto e si sono nutriti delle creature spirituali dei primi. E ciò che essi hanno prodotto di originale, cioè la tecnica, è in sostanza funzionale non allo spirito, ma ai bisogni materiali della vita. Forse è per questo motivo che siamo continuamente attirati verso i paesi caldi. Sono Vito Mancuso, vi sto parlando di Dietrich Bonhoeffer, di questo teologo che per la mia vita, fin da quando ero ragazzo, ha avuto un'importanza fondamentale. Perché l'ha avuta? Perché leggendo le sue pagine, io mi sono sempre reso conto che la mia natura, il mio essere un pezzo di mondo, il mio essere un fenomeno naturale, il mio essere anche animale, ecco, tutto ciò non era in contrasto con la dimensione spirituale, al contrario, è proprio prendendo radicalmente sul serio questo mio essere natura, questo mio essere animale, è proprio prendendo sul serio questo mio essere un pezzo di mondo che io posso comprendere che cosa significa lo spirito, posso comprendere da dove nasce lo spirito e che cos'è lo spirito. E devo dire che quanto di nuovo c'è nel mio libro, L'anima e il suo destino, nasce esattamente da qui, nasce dal capire cioè che l'anima non è un fenomeno che proviene dall'alto, che scende dall'alto, ma al contrario, qualcosa che sorge dal basso, dalla materia mater, che produce ogni cosa. Ecco, se sono potuto giungere a queste conclusioni è esattamente per la teologia bonifieriana che soprattutto nelle ultime lettere di Resistenza e Resa appare totalmente consonante con questa modalità. La lettera al sole di cui abbiamo ascoltato prima la lettura, e che cos'è infatti? È un inno alla vita naturale, alla salute, alla forza, alla felicità naturale, cioè la vita umana intera in tutte le sue manifestazioni. Ed è così, e in questa maniera si è a contatto con il divino, non uscendo da se stessi, non uscendo dalla propria, non abbandonando il proprio essere un pezzo di mondo. Ecco, questa prospettiva a mio avviso significa un addio definitivo alla teologia del peccato originale, alla teologia cioè che designa la felicità naturale come una sciagura, che designa la salute come una malattia, la forza vitale come disperazione, che insomma deve fare dell'uomo naturale, di noi come siamo, come ci muoviamo, come nasciamo, necessariamente innanzitutto qualcosa di peccaminoso, bisognoso di redenzione, bisognoso di essere salvato. Questa è la teologia del peccato originale, cioè quella teologia che pensa che noi veniamo al mondo e per il fatto stesso di venire al mondo, di essere generati come uomini, siamo bisognosi di redenzione, siamo peccatori, c'è una vera e propria colpa. Questo è ciò che dice il dogma del peccato originale, c'è una vera e propria colpa che grava sul capo di ogni essere umano in quanto è uomo, semplicemente per il fatto di essere stato generato da altri uomini. E voi vedete che una teologia di questo tipo ha necessariamente l'aspetto naturale, l'aspetto di uomo naturale come nemico. È una teologia di cui Bonhoeffer diceva, ma chi pensa così che cos'è? È quella gente che anche in un giardino cerca il letame. Entri in un giardino, non va a vedere i fiori, ma va a cercare il letame da cui nascono i fiori. È una teologia che ha bisogno di dimostrare che l'uomo è innanzitutto un fenomeno peccaminoso, un fenomeno negativo. Ecco, è contro questa teologia, alla luce di Dietrich Bonhoeffer, che io ho iniziato la mia avventura teologica nei diversi libri, in particolare in quest'ultimo, nell'anima e il suo destino, lottando dichiaratamente contro ciò che io ritengo un grande deficit della teologia tradizionale, della dottrina tradizionale, che è esattamente l'idea di peccato originale. Ciò che Bonhoeffer ci consegna attraverso queste pagine meravigliose è che la natura in se stessa, nella sua dimensione animale, nella sua dimensione minerale, nella sua dimensione vegetale, è il luogo da cui nasce lo spirito. Qui è dato un rovesciamento completo dell'essere dell'uomo per il fatto che Gesù esiste per altri esclusivamente. L'esserci per altri di Gesù è l'esperienza della trascendenza. Solo dalla libertà da se stessi, solo dall'esserci per altri fino alla morte nasce l'onnipotenza, l'onniscienza, l'onnipresenza. Il trascendente è il prossimo che è dato di volta in volta. Dio in forma umana, l'uomo per altri. E perciò il crocifisso. L'uomo che vive a partire dal trascendente. Un tempo si pensava che l'amore per Dio dovesse condurre al disprezzo per il mondo. Nel Novecento ci sono grandi cristiani, grandi figure spirituali, che dimostrano esattamente il contrario, cioè che l'amore per Dio porta all'amore totale per il mondo, alla lotta anche per la giustizia in questo mondo. E la figura di Bonhoeffer che stiamo vedendo in questa serata è estremamente significativa e emblematica di questo aspetto. Lui, che era un pastore protestante, che era un professore di filosofia, con una carriera brillantissima davanti a sé, che rinuncia a tutto ciò per impegnarsi attivamente nella vita politica e per partecipare alla resistenza antinazista, fino a voler giungere a un complotto contro Adolf Hitler. Tutto ciò lo porterà in carcere, con le conseguenze che abbiamo visto. Abbiamo visto anche come per Bonhoeffer la religiosità tradizionale, quella di un Dio tappabuchi, di un Dio che si contrappone alla dimensione naturale, era quanto mai da escludere, era ormai dichiarata finita, conclusa, incapace di parlare agli uomini. Al contrario, Bonhoeffer parla di una religione naturale. È proprio questa riflessione sulla religione naturale che produce in lui il testo che ascolteremo tra breve, che è uno dei più alti, uno dei più belli, in forma poetica, perché si tratta di una poesia, uno dei testi che è appunto, che si intitola appunto Cristiani e Pagani, e che è un manifesto della teologia universale. Chi sono i pagani a cui qui Bonhoeffer si riferisce? Non sono più ovviamente gli uomini di 2000 anni fa, appartenenti alla religione greca, alla religione romana, eccetera. Sono gli uomini di oggi, sono gli uomini di questo mondo secolarizzato, di questo mondo non più cristiano. Ed è in questa poesia del luglio 44, quando sapeva sempre più, sentiva sempre più che per lui non ci sarebbe stata nessuna possibilità di uscire vivo dalla cella del carcere nazista in cui era rinchiuso, è in questo testo che Bonhoeffer scrive: Dio va a tutti gli uomini, dove la sottolineatura deve cadere proprio su tutti, e dice che muore in croce per cristiani e pagani e perdona a questi e a quelli. Che cosa dice? Dice: i pagani sono perdonati in quanto tali, cioè non c'è bisogno che diventino cristiani. E non solo, aggiunge un'altra cosa, lui dice: così come i cristiani 2000 anni fa hanno eliminato la circoncisione come necessaria per la salvezza, voi sapete che per gli ebrei la circoncisione è il momento, è l'atto mediante cui si entra a far parte del popolo. E ci fu un dibattito all'origine del cristianesimo: ma dobbiamo tenerla anche noi questa circoncisione oppure no? Si può essere cristiani senza venire circoncisi? Il dibattito si concluse a favore della inutilità della circoncisione per la salvezza. Ebbene, Bonhoeffer dice: allo stesso modo, oggi occorre eliminare come necessaria alla salvezza la pratica della religione normata dalla Chiesa. Dire queste cose oggi è qualche cosa di rivoluzionario. Esattamente come 2000 anni fa era rivoluzionaria l'idea di eliminare la necessità della circoncisione. Ma è esattamente quello che Bonhoeffer ribadisce, e non a caso lui scriveva che cosa lo inquietava, lo impegnava, proprio la questione del cristianesimo inconsapevole. Cioè questo è il tema, questo su cui io vorrei questa sera e in questi incontri continuamente insistere, cioè il tema della salvezza, cioè di come un elemento particolare come il cristianesimo possa rappresentare la salvezza per tutti gli uomini. Cioè la questione è: o esiste la possibilità di un cristianesimo inconsapevole, o il cristianesimo non può essere universale, quindi non può essere la verità, perché l'essenza ontologica della verità è l'universalità. Quindi è essenziale per la teologia mostrare la possibilità di un cristianesimo inconsapevole. E questa è l'anima della nuova teologia di resistenza e resa, il capolavoro appunto di Bonhoeffer, che ruota tutto attorno alla ricerca e alla formulazione di un cristianesimo così, un cristianesimo non religioso, una libertà dalla religione. Questo significa, scriveva Bonhoeffer il 16 luglio 1944, che parole straordinarie che adesso vi leggo, che essere cristiano non significa essere religioso, significa essere uomini. Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione, piangono per aiuto, chiedono felicità e pane, salvezza dalla malattia, dalla colpa, dalla morte. Così fanno tutti, cristiani e pagani. Uomini vanno a Dio nella sua tribolazione. Lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto né pane. Lo vedono consunto dai peccati, debolezza e morte. I cristiani stanno vicino a Dio nella sua sofferenza. Dio va a tutti gli uomini nella loro tribolazione. Sazia il corpo e l'anima del suo pane. Muore in croce per cristiani e pagani. E a questi e a quelli perdona. Spero di essere stato in grado di dare a chi mi ha ascoltato almeno un'immagine della forza di questo grande pensatore che è Dietrich Bonhoeffer. Abbiamo visto nel primo nostro incontro il pensiero, l'opera e la vita di Pavel Florensky, la stessa cosa nel secondo per Simone Weil, ora abbiamo parlato del pastore protestante tedesco Dietrich Bonhoeffer. Domani ci incontriamo con una figura di donna che ovviamente reputo straordinaria, altrimenti non ne parlerei, una donna assolutamente fuori dall'ordinario, sotto tutti i punti di vista, il cui nome è Etty Hillesum. A risentirci, a domani, buona serata da Vito Mancuso.